Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla finestra sul cortile. Sono coetanei, avrebbero potuto essere compagni di scuola. Compiono due secoli a testa, ma non li dimostrano e non pensano neppure lontanamente di andare in pensione. Anzi, sono più che mai sulla cresta dell'onda. Parliamo di Charles Darwin e di Abramo Lincoln, che giovedì prossimo, 12 febbraio, spegneranno le prime 200 candeline. Il primo, a due secoli dalla nascita e a 150 anni dalla pubblicazione dell'Origine delle specie, continua a far discutere e a dividere le coscienze. Il secondo, Abramo Lincoln, è stato più volte evocato dal nuovo presidente USA Barack Obama, che lo considera un po' il suo modello, quasi una specie di santo protettore. Ma cosa avevano in comune questi due personaggi, a parte la data di nascita? Di questo parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il sommario di oggi. Stati Uniti, coetanei e nemici della schiavitù. Ecco cosa avevano in comune Charles Darwin e Abraham Lincoln, entrambi nati 200 anni fa. India. Vietato festeggiare San Valentino. Secondo i fondamentalisti religiosi, la ricorrenza è estranea alla cultura indiana. Inghilterra. Universo, sesso, vita, morte e libero arbitrio. Queste le domande a cui gli scienziati non sanno ancora rispondere. Egitto. Copyright. Alla Fiera del Libro del Cairo si discute del diritto d'autore, ancora poco rispettato nel mondo arabo. Inghilterra. All'Oxford University non piace il kebab. L'odore del famoso piatto arabo disturberebbe il sonno degli studenti. Austria. Pix Hotel. Inaugurato a Linz, il primo albergo virtuale con 6 camere sparse per la città. Ma che copyright d'Egitto? Alla Fiera Internazionale del Libro del Cairo si discute dei diritti d'autore e del perché i diritti d'autore non sono sufficientemente protetti nel mondo arabo. È una discussione di cui si parla sul giornale egiziano Al-Aram Weekly in un articolo di Nevin El Aref, e si parla appunto della discussione pubblica avvenuta tra il vicepresidente della Associazione Internazionale degli Editori, Ibrahim El Muallim, che è per l'appunto egiziano e anche presidente degli editori egiziani, e il suo presidente per i prossimi 2 anni, lo scrittore olandese Herman Spruit, che appunto ha introdotto una conferenza stampa sul tema della diffusione della lettura e del libro nel mondo arabo. E in particolare ha detto: ma come mai, dice, mentre i visitatori di questa fiera sono quasi 2 milioni e invece il numero di editori e di agenti letterari stranieri rimane molto piccolo? Perché, dice, la Scozia ha qualcosa come 14.000 libri disponibili su internet, mentre il mondo arabo praticamente non è presente? E la risposta, dice Herman Spruit, è che nel mondo arabo non c'è una sufficiente protezione dei copyright, dei diritti di proprietà intellettuale, e non ci sono abbastanza norme contro la pirateria. Questa mancanza, questa carenza legislativa, questa, diciamo, mancanza di tutela, fa sì che non ci sia un sufficiente sviluppo dell'editoria. E questo però riguarda tutto il mercato, tutta l'economia, che cresce in quanto ci sono delle leggi che proteggono i diritti di proprietà. E questo è un problema non soltanto dell'Egitto e del mondo arabo, ma di molti paesi in via di sviluppo. A proposito di questi problemi, abbiamo interpellato un esperto che abbiamo in linea e che ringraziamo di essere qui con noi alla finestra sul cortile il professor Vincenzo Franceschelli. Ben trovato, professore. Grazie. Professor Franceschelli è ordinario di diritto privato all'Università di Milano Bicocca, nonché avvocato, esperto e specializzato proprio in materia di copyright, brevetti, proprietà intellettuale. E immagino che a lei abbia avuto esperienza forse anche di qualche caso legale, divertenza legale proprio con questi paesi. Ma casi concreti no, però conosco i problemi che affaticano gli studiosi di proprietà industriale del mondo arabo, i quali devono trovare nel Corano, che è la legge, che è il principio generale della legge islamica, dei principi che permettano l'attribuzione all'autore di un diritto paragonabile al nostro copyright o diritto d'autore. E che non è facile, perché un conto è la proprietà della terra, la proprietà di cose concrete, un conto è la proprietà delle idee, no? Cioè, complimenti, cosa... lei ha toccato esattamente il punto, perché il Corano permette la protezione del diritto di proprietà e del frutto del lavoro dell'uomo, che è meritevole di una retribuzione. E quindi gli studiosi di diritto islamico da secoli cercano di giustificare, secondo i principi della legislazione islamica, la possibilità di attribuire a un autore certo, un equivalente diritto. E però questo sforzo, insomma, tarda a dare frutti, insomma, mi sembra di capire. E beh, perché diciamo che c'è una tradizione contraria, nel senso che è tradizione dell'Islam, non che io sia, non voglio vantarmi, non voglio dare l'impressione di essere un esperto, però ho discusso spesso a lungo con colleghi di università arabe o musulmane, e l'Islam ha una tradizione, per esempio, di diffusione delle idee. Per esempio, pubblicare o diffondere il Corano è un'opera che deve essere libera, e quindi certo, non si attribuiscono dei diritti a chi, per esempio, ricopia o riproduce il Corano o libri che diffondono l'Islam. È perché il copyright è del profeta, quindi non è delegabile, bisognerebbe pagare a lui le royalties. Sì, sì. Diciamo che è curioso vedere in testi anche di epoca storica che in apertura ci sono delle dichiarazioni del tipo: non deturpare la mia opera, perché se la deturperai il giorno del giudizio, perché anche il mondo musulmano ha un momento finale, sarai punito, però sarai punito in quel mondo, non in questo. Lasciamo per un attimo da parte il mondo islamico, ci sono altri paesi in via di sviluppo, dall'Africa all'America Latina, ma pensiamo alla Cina, che francamente calpestano molto spesso i diritti di copyright, i diritti di proprietà intellettuale. Per esempio, mi risulta che quando è uscito Harry Potter in Cina c'erano molte stamperie clandestine che ne producevano delle copie pirata e poi le vendevano. Beh, diciamo che sono i due estremi di una situazione variegata. Non vorrei essere polemico, ma direi che in Cina, in certi paesi di sviluppo, la protezione del copyright ce n'è poca, mentre da noi forse ce n'è troppa. Perché troppa? Beh, troppa perché ogni volta che andiamo al cinema siamo assediati da questi messaggi terrorizzanti che ci dicono che scaricare un po' di musica da internet è un reato, certo. O che tutti quelli che hanno un iPod sono pericolosi criminali. Insomma. E ormai non viene più percepito come un reato, cioè, tutti quanti lo fanno come una cosa normale, anzi, no? Quasi come un diritto. Ma sì, è questo. Forse lei ha perfettamente ragione, il punto, anche qui non vorrei dare ostentazioni di cultura recente, ma l'ultimo libro di Lessig, che tutti conosciamo perché è stato un po' un antisignano, pone proprio questo accento, cioè questo approccio al copyright eccessivamente intrusivo ci pone in conflitto con le nuove generazioni. E con le nuove tecnologie, insomma. E con le nuove tecnologie, mm-hmm. Per cui diciamo che opinione comune, che almeno di coloro che la pensano in questo modo, che stiamo combattendo una difesa del copyright con degli strumenti arretrati, insomma, della guerra precedente. Ecco. Del resto i generali combattono sempre le nuove guerre con le armi. Con le armi tradizionali. Bene, noi ringraziamo il professor Franceschelli, alla prossima. A presto. Grazie. Tempi duri per i venditori ambulanti a Oxford. Leggiamo sulle pagine del Telegraph un articolo di Caroline Gemmell in cui si racconta la storia di questo Said Kashmiri, un venditore ambulante di kebab che aveva piazzato per gli ultimi 15 anni il suo baracchino proprio di fronte al Christ Church College di Oxford. E vendeva il suo cibo medio orientale dalle 7 di sera fino alle 3 del mattino per gli studenti che fanno bisboccia fino a tardi e magari affamati andavano al suo baracchino e Sid's Kitchen faceva grandi affari, ma la direzione del College di Oxford ha deciso che l'odore del kebab disturbava il sonno degli studenti e quindi riduceva la loro produttività e la loro concentrazione nello studio. Probabilmente lo sostituiranno con un baracchino di fish and chips. E adesso andiamo in Austria, per la precisione a Linz, capitale culturale europea del 2009, dove c'è una interessante iniziativa turistico-alberghiera. Quest'anno pernottare a Linz può trasformarsi in un'avventura se si sceglie l'albergo virtuale chiamato Pixhotel, un hotel composto da 6 camere sparse per la cittadina austriaca. Ogni stanza è collocata in un quartiere diverso e tra le possibilità di pernottamento viene offerta una camera in un'officina, in una galleria e persino un alloggio su una barca. Per colazione gli ospiti possono recarsi in alcuni locali convenzionati nei pressi della propria stanza. Ma attenzione, sebbene l'hotel sia virtuale, il prezzo è del tutto reale. La finestra sul cortile. Angels and Ages, Angeli ed Ere, è il titolo di un libro di Adam Gopnik che viene recensito da Richard Eder sul Los Angeles Times. Angels and Ages, a short book about Darwin, Lincoln and modern life. Questo è il sottotitolo pubblicato da Alfred Knopf. E questo libro esce, guarda caso, proprio alla vigilia di un anniversario, l'anniversario della nascita sia di Abramo Lincoln che di Charles Darwin, che nacquero appunto nello stesso giorno dello stesso anno, il 12 febbraio 1809, esattamente 2 secoli fa. Ma che cosa unisce queste due personalità? Adam Gopnik sostiene che il tratto fondamentale che li collega, benché non si siano mai conosciuti né incontrati, e benché appunto facessero due mestieri totalmente diversi, uno il presidente degli Stati Uniti, l'avvocato e poi il politico, e l'altro, come sappiamo, un grande scienziato che ha fondato la teoria dell'evoluzionismo. Ma la cosa, il tratto comune è proprio il fatto che entrambi, ognuno nel suo campo, ha trasformato le idee e ha avuto un impatto sulla cultura del proprio tempo e anche sulla cultura dei secoli a venire, che è un impatto assolutamente senza paragoni, straordinario, e che tant'è vero che ancora se ne parla oggi. Sono due figure che sono ancora al centro del dibattito. Ovviamente soprattutto Darwin, perché divide le coscienze per i motivi che sappiamo, perché ci sono i creazionisti, c'è un vasto movimento che contesta l'evoluzionismo, ma anche Lincoln, perché è considerato dal presidente americano Obama il suo modello, quasi una specie di santo protettore. Ma ci sono altri tratti in comune tra i due personaggi che emergono da questo libro di Adam Gopnik, e sono per esempio il fatto che entrambi consideravano la morte come un elemento di selezione naturale o di emancipazione del popolo, nel caso di Lincoln, che anche la guerra, insomma, in qualche maniera aveva la funzione liberatrice, una funzione di progresso. Nel caso di Lincoln era la guerra civile americana. Ma dice Gopnik soprattutto che questo anno 1809 in qualche maniera è un anno di svolta, perché a quell'epoca l'umanità guardava ancora con timore al Padre Eterno, ad un Dio soprannaturale, e guardava invece con un complesso di superiorità, in maniera un po' altezzosa, al mondo creato, agli animali e in generale alla natura. Con l'avvento di questi due personaggi, in qualche maniera questo ordine delle cose, questo modo di vedere il mondo, cambia radicalmente. Cioè, da un lato c'è l'accettazione del fatto che le specie mutano, che il racconto biblico è puramente metaforico e che in realtà tutta la natura e la terra è cambiata, una sua storia. E Lincoln ha imposto, diciamo, l'idea di democrazia, che prima di lui era considerata invece una fonte di disordine sociale. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono il nostro ospite, il professor Barbujani, a cui diamo il benvenuto alla Finestra sul Cortile. Ben trovato. Grazie. Il professor Barbujani lo conosciamo come un grande genetista, docente di genetica umana all'Università di Ferrara, tra l'altro autore di molti libri sui temi dell'evoluzione umana e anche del razzismo, tra cui l'ultimo ha un titolo molto spiritoso: Sono razzista, ma sto cercando di smettere. Professor Barbujani, ecco, lei trova che questa analogia tra i due personaggi, al di là della data di nascita, che è una pura coincidenza, abbia senso? Ma guardi, più lei parla e più sto cominciando a pensare che forse abbia senso questa analogia. Inizialmente mi sembrava che l'idea della stessa data di nascita fosse poco di più di quello che si può leggere nella un pagina della storia. Un po' campata in aria, insomma, sì. Sì, un poco campata in aria. Effettivamente è vero che si tratta di due persone che hanno profondamente trasformato il nostro modo di pensare. Io su Lincoln in realtà non so molto, ma Darwin è una persona a cui anche chi non l'ha letto deve, io credo, un po' della sua inquietudine nei tempi in cui viviamo. Darwin e Copernico ci hanno tolti il primo dal centro del creato e il secondo al centro dell'universo, e contribuiscono a farci sentire persi, che è una condizione tipica della modernità. In questo senso forse l'analogia non è tanto con Lincoln quanto con altri grandi scienziati e grandi pensatori. Indubbiamente l'aspetto dell'opposizione radicale allo schiavismo da parte di tutti e due è un punto di contatto tra queste due grandi personalità. Infatti, proprio sullo schiavismo richiama l'attenzione un altro articolo che non ho citato prima, di Adrian Desmond su Prospect, la rivista teorica dei laburisti inglesi, che è intitolata proprio Darwin the Abolitionist, in cui cita diverse lettere e scritti, pagine di diario di Darwin, in cui lui nel suo viaggio intorno al mondo ha assistito a delle scene di maltrattamento, di violenza nei confronti delle popolazioni colonizzate, delle cosiddette, tra virgolette, razze inferiori, che gli provocano una forte indignazione morale. Certo, c'è un famoso paragrafo dell'autobiografia di Darwin in cui si cita questo litigio tra Darwin, che era ai suoi tempi comunque una persona liberale, aperta, e il comandante della Beagle, il capitano Fitzroy, che si era messo a difendere lo schiavismo sostenendo che gli schiavi stessi amano essere schiavi, e Darwin gli aveva chiesto provocatoriamente se la domanda gli fosse stata posta in presenza del loro padrone, e quando Fitzroy aveva ammesso che sì, il padrone era presente, Darwin gli aveva detto: guarda, questa risposta non conta nulla, non erano liberi di rispondere. Sì. Pare che il capitano Fitzroy si fosse infuriato e l'avesse addirittura espulso dalla cabina. Come forse sapete, Darwin dormiva nella cabina del capitano. Aveva un privilegio, insomma, era trattato bene. Era trattato bene, però vivevano tutti e due in 3 metri di spazio, in 3 metri quadri, quindi non potevano litigare. Sì. Insomma, il comandante addirittura lo sbatte fuori dalla cabina, però dopo si pente e lo richiama dentro. Quindi indubbiamente Darwin non le mandava a dire queste cose. Era anche un uomo del suo tempo, quindi era un uomo che era convinto che l'umanità potesse essere descritta come formata da varie razze, anche se poi nel suo libro del 1871 lui esprime un dubbio radicale legato proprio al fatto che tutti i cataloghi razziali proposti sono in contrasto l'uno con l'altro. Ecco, infatti qua dice in questo saggio che proprio in questo viaggio sul Beagle si era portato dietro un'opera in 17 volumi intitolato Le Dictionnaire Classique d'Histoire Naturelle, che divideva l'umanità in 15 specie addirittura. Eh sì, c'erano anche quelli che sostenevano che l'umanità fosse costituita da specie diverse, cosa che Darwin escludeva, appunto, della quale era sicura. Ma certo, ai suoi tempi anche la nostra conoscenza della cosiddetta biodiversità umana, quella che oggi chiamiamo biodiversità umana, era molto più ridotta che oggi, e quindi c'era spazio per dei dubbi, e Darwin, uomo del suo tempo, aveva una posizione di attesa, cercava di capire bene come fossero le cose, non aveva una posizione ferma come possiamo avere oggi su questi temi. Però si ribellava allo schiavismo, ecco, quantomeno a questo, insomma. Cioè, diceva, quando ritornò da questo suo lungo viaggio, dice: per fortuna non tornerò in paesi schiavisti, non vorrei mai più tornarci nella mia vita perché non voglio vedere certi spettacoli. Certo, ma sa, Darwin era comunque una persona che viveva nel suo tempo, e forse ecco una cosa che si può dire a proposito di questo libro è che associare questi due personaggi così diversi, che forse hanno in comune un atteggiamento ottimista nei confronti del futuro, sono dei grandi riformatori, forse segna un po' il passaggio ad un nuovo periodo sociale negli Stati Uniti d'America. Forse negli anni di Bush un libro di questo genere avrebbe avuto meno probabilità di essere pubblicato di quanto non succede adesso all'inizio della cosiddetta era di Obama. Ah beh, certamente, soprattutto perché c'erano i cristiani fondamentalisti che di Darwin non volevano sentir parlare, insomma, no? Erano in auge, mentre adesso siamo un po' in declino. Sì, guardi, non lo so se sono in declino, in questo momento si sono un poco calmati, non ci sono dei grandi conflitti negli Stati Uniti d'America, però indubbiamente la società americana non è cambiata perché è stato eletto Obama, quindi io questo naturalmente no, certo. Non siano diversissime da 2-3 anni fa, però indubbiamente il gesto simbolico, l'atto simbolico, il primo presidente di colore degli Stati Uniti d'America, forse ha cambiato un poco l'atmosfera anche nel dibattito culturale. Certo. Bene, a questo punto noi ci dobbiamo lasciare e saluto il professor Barbujani. Alla prossima e grazie. Alla prossima, arrivederci. E rimaniamo in campo scientifico, ma ci spostiamo in Inghilterra sulle pagine del Guardian, che si domanda quali siano i 5 misteri ancora da risolvere nella scienza contemporanea, e li riassume in questo modo: il primo è la materia oscura, il secondo sono le origini della vita, il terzo è la morte, il quarto il sesso e il quinto è il libero arbitrio. In particolare sul sesso si evoca ancora una volta la figura di Charles Darwin, che aveva avuto ben 10 figli, ma si domandava e continuò a domandarsi tutta la vita come mai nella biologia fosse la riproduzione sessuale a prevalere piuttosto che la clonazione asessuata, e considerava il sesso un modo veramente inefficiente per riprodursi. Inefficiente magari sì, ma certo abbastanza piacevole. Dai misteri del sesso a quelli dell'amore, ci spostiamo in India, sulle pagine del Times of India. Apprendiamo che a Mangalore una setta fondamentalista religiosa, la Sri Rama, ha vietato la festa di San Valentino, la festa degli innamorati, sostenendo che è contraria alle tradizioni indù. Peccato che anche i fidanzati induisti si scambino in quel giorno regali e fiori, e i negozianti non sono tanto d'accordo con i fondamentalisti di Sri Rama. E per questa puntata è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Daniele Casagrande e Vittoria Mussini in redazione, Valeria Bernardi in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.